Torino. Quante volte tra i fiori in terre gaie, sul mare tra il cordame dei velieri, sognavo le tue nevi, i tigli neri, le dritte vie corrusche di rotaie, l'arguta grazia delle tue crestaie, o città favorevoli ai piaceri. E quante volte già nelle mie notti d'esilio, resupino a cielo aperto, sognavo sere torinesi, certo ambiente caro a me, certi salotti beoti assai, pettegoli, bigotti, come ai tempi del buon re Carlo Alberto. Guido Gozzano.